Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Benvenuti, oggi è sabato 9 maggio, ormai siamo nel pieno della primavera che si manifesta con gli uccellini che cantano, con i fiori che crescono, con le donne che camminano per strade un po' più svestite, con le gonne svolazzanti, delle scollature insomma evidenti. Vuol dire che anche noi sentiamo la primavera, è vero caro Ceva? Certo, caro Manera, lei che è un maniaco queste cose le nota immediatamente, non aspetta altro che la primavera, va in letargo lei d'inverno. Io vado in letargo, ma la cosa che noto è che in primavera tutte le donne sembrano appetibili, ecco, anche quelle che magari d'inverno ti sembravano, come dire, più pelose. Ma oddio, io su questo anche a gennaio sono sempre abbastanza di bocca buona su quello. Ma secondo lei, adesso non c'entra con l'argomento della nostra puntata, ma d'inverno la donna è un po' più pelosa, si depila meno? Sì, secondo me sì. Lascia crescere dei gran peli. Ma proprio perché anche un po' per la temperatura, per tenersi così anche sulle gambe, sì. Per tenere un po' più caldo al corpo, come gli orsi, come... A lei piacciono le donne che hanno molti peli sulle gambe? Per esempio. Niente, no. Sai che una volta era di moda per la donna non depilarsi sotto le ascelle? Essere irsuta sotto le ascelle, sì, ma in effetti la depilazione sotto le ascelle, io insomma ricordo mia mamma, quando ero bambino non se la faceva, non lo so, magari adesso sto svelando degli aspetti di mia mamma. Pensi sua madre che insomma adesso si dispiacerà per questa cosa che lei dice. Oh, il manfiole la dica e qualche si resù e la me depilare mia... Le ascelle, no. I peli, gai e peli sotto le ascelle, dirà la sua esatto, madre. Cioè non è veneta, ma... ma va bene. Ma perché parliamo di queste cose che non c'entrano nulla con l'argomento? Non lo so, perché la lontananza, sai, è come il Veneto. Come il vento. Allora, la prima notizia che diamo è questa: viene operato l'orecchio sbagliato, l'ex primario deve pagare i danni. La Corte dei Conti, e questo primario, ex primario Mura, deve risarcire 60.000 euro all'ospedale nel quale è operato. Che mi sembra giusto, finalmente, che insomma non so cosa ne pensa lei, caro Ceva, però è anche giusto che i professionisti, io la penso così, almeno medici, magistrati, poi abbiano una responsabilità civile e economica, quantomeno, per i danni che hanno fatto. Lei ha mai avuto problemi con la sanità, caro? Io fortunatamente no. Ma non si direbbe così a vedere. Vabbè, ma non erano errori, erano proprio cose insomma che erano andate male a me. No, ho avuto alcuni, ma pochissime, ma guardi, scusi, tocco un attimo, faccio gli scongiuri, perché non ho avuto cose così gravi da poter insomma... Però sa qual è il problema? Quando uno va da un medico, va da un avvocato, ha sempre un po' di timore reverenziale, quindi ha anche paura a reagire a queste cose che ti capitano, perché dicono, ancora come c'era una volta, il dottore avrà ragione lui. Invece insomma è giusto, noi ci facciamo promotori per una responsabilità anche più insomma incisiva dei medici. Però questa cosa sulle orecchie l'abbiamo detta soprattutto per dire qualche battuta sulle orecchie. Per esempio, se ti fischia un orecchio è male, ma se ti applaude è peggio. Lei immagina l'orecchio che si piega per applaudire, caro Ceva. Questo era di Gino Patroni, scrittore e giornalista. Ne dica una lei. La natura è fantastica. Un miliardo d'anni fa non avrebbe mai sospettato che noi avremmo portato gli occhiali, eppure ci ha fatto le orecchie. Milton Berle, che lo citiamo spesso. Va bene, passiamo alla seconda notizia. C'è una misteriosa malattia. Non preoccupatevi, perché non è qui in Italia, è anche abbastanza lontano. È in Kazakistan, in questa città che si chiama Kalachi, in Kazakistan, ma è una misteriosa malattia in questo villaggio che viene definito il villaggio dei dannati. Perché viene definito il villaggio dei dannati? Perché in questo villaggio chiunque vada, poi dopo esserci stato, accusa un sonno improvviso e profondo che arriva a durare fino a 6 giorni e a cui fanno seguito un inarrestabile desiderio sessuale, visioni di creature spaventose, furia incontrollabile e perdita di memoria. Questo è veramente incredibile. Eppure è così, caro Beniamino, hai tutti questi sintomi, diventi come Adriano Pappalardo. Ve lo ricordate Adriano Pappalardo? Ricominciamo. Sì, sì. Dica qualche battuta sulle malattie, Ceva. Sono stato a un party selvaggio dove abbiamo giocato a una versione moderna della roulette russa. Eravamo circondati da 6 ragazze e una aveva una malattia venerea. Qui, per la gioia del nostro curatore, potremmo citare qualche malattia venerea, che so, scolo, gonorrea. sulla media. Allora, diciamo qualche battuta sulle malattie, visto che ho parlato di questo villaggio dei dannati. Per esempio questa: non viaggio mai in aereo, il viaggio verso l'aeroporto mi fa venire il mal d'auto. Sai che molti dicono aeroporto, invece si dice aeroporto. Aereo. Mio figlio aeroporto, è così anemico. Mio figlio è così anemico che ha bisogno di una trasfusione quando deve sanguinare. Questo era Luis Safian, battutista statunitense. Ma la notizia che più ci interessa è questa: lo credono morto e lui mette i manifesti con scritto "mi spiace deludervi". Può capitare questo, ogni tanto sento di notizie di qualcuno che è morto ma in realtà non è morto veramente. Chissà da cosa deriva, come nascono queste voci? Ma non lo so, ce ne sono tra l'altro delle abbastanza tristi anche, le pubblicano su Facebook. Giorni fa è uscito che era morto Renato Pozzetto, ma smentiamo, era assolutamente un fake. A lei è mai capitato di essere dato per morto? Sparire? No, però non mi è capitato di morire qualche volta. Poi è riuscito a rinascere. Sa che io a 6 mesi sono stato in coma. Ah, e com'è successo? A causa di cosa? È successo perché mia mamma lasciò le gocce per il naso, il deltarinolo, se non sbaglio. C'è ancora il deltarinolo, sì, così facciamo una bella pubblicità, sì. E io me lo bevvi, non so, mi ha lasciato lì da solo, io bevvi questo contenitore, questo botticino di deltarinolo e non mi svegliavo più. Mio papà mi teneva in braccio. Però e diceva, respiravo bene. Mio papà, insomma, a un certo punto si accorse che non mi svegliavo. Ed ha festeggiato. Hanno festeggiato in casa, però poi, insomma, mia mamma si è presa compassione e mi ha portato all'ospedale ed ero praticamente andato in coma etilico. In coma etilico, insomma, in coma da deltarinolo. Esatto. In questo caso è successo a un signore vicino a Macerata, a Sarnano, e addirittura erano andati a casa a trovarlo per fare le condoglianze ai parenti. E venivano, i parenti venivano accolti da lui. Venivano accolti da lui e gli facevano le condoglianze. Esatto, condoglianze, mi dispiace tanto, eri un bravo uomo. Esatto, ma sai che bello poter vedere il proprio funerale, sarebbe uno dei miei sogni. Ma è il sogno di tanti. Vedere il proprio funerale, sapere, magari. E certo, ma è una cosa che andrebbe trattata con lo psicologo, questo, con lo psicanalista. Lei vuole farsi cremare oppure preferisce essere inumato in quelle botole? Io vorrei farmi cremare e sa anche in che modo. No, non lo so in che modo. Prima di farmi cremare vorrei farmi imbottire di mais da popcorn. Non ne capisco il senso, qual è il senso perché di questa cosa? Perché si riderebbe tantissimo, cioè immaginiamoci questo cadavere che a un certo punto inizia a esplodere con dei popcorn che gli escono dagli orifizi. Non avevo capito questa cosa. Va bene, altre battute sulla morte. Mi piace il giorno dei morti, vado al cimitero e mi sento qualcuno. Se vivi fino a 100 anni è fatta, pochissime persone muoiono dopo quell'età. Questa è di George Byrne, attore statunitense. Ma abbiamo iniziato parlando di problemi della sanità e abbiamo fatto qualche telefonata anche per capire se qualcuno ne ha avuti. Vediamo. Pronto? Pronto, buongiorno signora, qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore. La conosce? Sì, guardi, ma in questo momento non posso parlare che ho il bimbo piccolo che sto facendo dormire. Come si chiama il bambino? Salvo. Salvo. Stiamo commentando una notizia di un signore che aveva un problema all'orecchio ed è stato operato all'orecchio sbagliato, quindi hanno danneggiato anche l'orecchio che andava bene. Noi stiamo cercando a caso persone che eventualmente hanno avuto dei problemi con la sanità. Lei ha mai avuto problemi con la sanità? No, per fortuna no. Ha sempre avuto esperienze positive? Sì. Quanti anni ha, se posso chiederglielo? 32. Quindi è giovane, ha avuto il figlio adesso? Ha 3 anni. Lo rifarebbe il bambino oppure si è un po' pentita? No, lo rifarei. È vero che avere un figlio cambia completamente la vita di coppia oppure no? Certo, un pochino sì. Un pochino in peggio? No, in peggio no. Ah, la cambi in meglio? Forse in peggio. Un po' in peggio perché c'è meno intimità fra uomo e donna, perché si pensa di più al bambino e la coppia poco alla volta si sgretola e dopo qualche anno ci si separa. No, speriamo di no. E però spesso va così, c'è poco da fare. Vabbè. Lei prevede di separarsi a breve, vede nel suo futuro il divorzio oppure no? No. Nonostante la vita di coppia ormai sia compromessa? Sì. Va bene signora, noi le auguriamo di essere felice con suo marito, anche se avendo avuto il bambino sarà difficile, e le auguriamo di poter stare con suo marito ancora per un po'. Grazie. Grazie a lei. E allora siete sempre qui ad Avanzi di Manera, siccome noi sì, leggiamo notizie un po' anomale, insomma, che troviamo qua e là, però noi vogliamo anche far divertire tantissimo, far ridere a crepapelle. Perciò abbiamo pensato di inserire questa rubrica molto divertente, irrinunciabile, direi che d'ora in avanti sentirete sempre, se qualcuno di voi ci ascolta, che si intitola Scherzi telefonici venuti male. Scherzi telefonici, scherzi telefonici venuti male. Pronto, buongiorno signora, sono Silvio Berlusconi, presidente dell'AC Milan. Siccome sto vendendo la mia squadra di calcio in Milan, volevo sapere se era interessato all'acquisto di qualche quota. Sì, però era Silvio Berlusconi, perché Veneto? L'ha fatto Veneto. Beh, prima di tutto io sono scherzi telefonici venuti male, quindi ci sta. Ma poi secondo me anche lo imitavo molto bene. Ecco, questo, ma non è vero. Voglio tutelare la mia capacità professionale, perché io ho iniziato come imitatore e quindi... Perché si sa che Berlusconi è nato a Perarolo di Vigonza. È nato a Cavaillon Veronese. Traffico. Pronto, buongiorno, sono Silvio Berlusconi. No. Allora, accetta le cinture di sicurezza. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Allora, bentornati in questo sabato 9 maggio ad Avanzi di Manera. Io prima di ricominciare con le notizie voglio ricordare due cose. La prima è che ci potete sempre scrivere volendo qui ad Avanzi di Manera, @radio24.it, e io o Daniele Ceva o il regista Pietro Lacorte o Guido Scotti o Marco Del Conte vi risponderanno. E poi voglio ricordare che questa sera sono a Cherasco, che è vicino a Cuneo, a fare il mio spettacolo per un'associazione benefica. Quindi se voi voleste intervenire sarebbe una bella cosa, anche per il fine, per lo scopo dello spettacolo. Ma proseguiamo con le notizie. Questa che è una speranza per le persone anche anziane che non hanno ancora trovato l'anima gemella. Invece questi due, che si chiamano George e Doreen, si sposano a 195 anni, saranno la nuova coppia più anziana del mondo. Ceva, ha visto? Ma è vera questa notizia? Sì, però spieghiamo che non è che hanno 195 anni come l'ha detta. Infatti mi ero stupito anch'io, ho detto caspita, è la somma della loro età. Ah, ecco, cioè, non avevo capito, cioè insieme danno 195 esatto, anni. George di 103 e Doreen di 91 di Eastbourne nel Sussex. Sì, che è dove? In Inghilterra? In Inghilterra. Si sono conosciuti 27 anni fa, hanno avuto un po' di convivenza per conoscersi meglio, che già avevano 60-70 anni, hanno fatto un po' di non subito, lei non gliel'ha data subito perché insomma era un po' presto. E adesso... La paura. No, poi tra l'altro oltre ad avere 195 anni insieme, hanno anche 7 figli, 15 nipoti. Ma li hanno avuti in questi 27 anni, 7 figli? No, credo che siano... Di storie precedenti, esatto, perché altrimenti avrei dovuto partorire a 75, 80, 85 anni. Esatto, e però ha detto anche una battuta, ha intervistato questo George, dice che durante il matrimonio non mi sono piegato sulle ginocchia per propormi, solo perché non sapevo se fossi riuscito a rialzarmi. Non sapevo se sarei riuscito a rialzarmi. Non sapevo se fossi... Vabbè, qua sulla notizia è sbagliato. Vediamo da dove arriva questa notizia, diciamolo dal messaggero.it, che non ha corretto. Sgridiamo il messaggero che ha detto questa forma sintattica errata. Vede che qui siamo anche attenti al modo di parlare e di scrivere, Ceva. Lo so. Perché certo. Stiamo dicendo tutto il tempo che perdiamo siamo inutilmente. Sponsorizzati dall'Accademia della Cusca. Stiamo forse perdendo il tempo inutilmente. Assolutamente. E quindi niente, andiamo avanti con la prossima notizia. Ti accorgi di essere invecchiato quando, chinandoti per allacciarti una scarpa, ti chiedi cos'altro puoi fare già che sei giù. Esatto. E sono già giù, mi sono già piegato. Cos'è che posso fare? Ma forse magari mi è caduto un bottone l'altra settimana. Questo è di George Burns, sono sempre questi i nostri riferimenti, Milton Berle, George Burns. Sì, devono avere... Quando avrai 80 anni avrai probabilmente imparato tutto della vita, il problema sarà ricordarlo. E chi è questo? George Burns. Ma c'è anche una buona notizia per quelli già sposati, che invece capita nella vita e sono separati, divorziati. L'assegno adesso è mobile, non è più fisso, è mobile, non è più fisso come era prima. L'assegno che è mobile. Di solito il povero uomo doveva provvedere al mantenimento della moglie per sempre. Adesso, se cambiano le condizioni, un po' può cambiare anche l'assegno. Per esempio, se si fa una nuova famiglia, chi ha delle spese nuove derivanti dalla nuova famiglia può anche un po' diminuire l'assegno, oppure in caso di disoccupazione, oppure se bisogna fare una trasferta per andare a vedere il figlio, si può diminuire l'assegno. Vengono scalati dalla trasferta. Diamo insomma qualche buona notizia per quei poveri anche padri, diciamolo, perché ce ne sono tanti che si rovinano e poi sono costretti a andare a vivere in tre, in quattro insieme, perché danno tutto l'assegno di mantenimento alla moglie. Quindi si formano queste community di padri che vivono in questi appartamenti tristissimi, senza me lo raccontavano proprio oggi. Ci sono delle comunità di padri divorziati che, dovendo passare gran parte dello stipendio alla ex moglie, sono costretti a riunirsi in tre o in quattro a vivere insieme e passano le serate a offendere le proprie ex. Faranno queste cose, queste discussioni in cui ovviamente qui emerge del grande rancore verso, esatto, verso queste donne che a loro dire probabilmente gli hanno rovinato. Condominio il rancore. Come si chiama una bionda non sposata in BMW? Divorziata. Allora, questa è di un anonimo. Il giudice alla signora: in che modo si è resa conto che suo marito era bigamo? È successo il giorno in cui gli ho detto che volevo il divorzio. Lui si è tradito rispondendomi: è una decisione importante, bisogna che ne parli con mia moglie. Mia mamma mi ha sempre detto: non sposarti per soldi, divorzia per soldi. No, basta, questa risata è assolutamente finta. Questa risata è fastidiosa. Però insomma, abbiamo cercato anche di capire se qualcuno la pensa diversamente, magari qualche donna, oppure se troviamo qualche uomo separato o divorziato che ha da dirci qualche cosa. Sentiamo. Pronto? Pronto, buongiorno signora, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? Ogni tanto, sì, ditemi. Noi stiamo commentando questa notizia per cui l'assegno per gli alimenti in caso di divorzio verrà modificato, nel senso... No, non mi interessa a me, io non sono né sposata né... non mi interessa, da sola, per cui non mi interessa. Beh, però potrebbe sposarsi, la voce è ancora giovane. Non mi interessa, Ma la sua voce è giovane, giovanile, posso chiedere quanti anni ha? 38. Una bella età, insomma. Lei è nella età ideale per sposarsi, secondo me. No, non ci penso nemmeno, dai. Ma perché non le interessano gli uomini o perché non le piace l'idea del matrimonio? No, l'idea del matrimonio non mi interessa nemmeno. Beh, però lei è nel pieno della No, assolutamente. Della maturità femminile. È la mia scelta. Sì, no, ho capito, però insomma... No, mi interessa. Dove abita? Posso chiederle dove abita? No. Dice sempre no, signora, per quello che non si sposa. Assolutamente, la ringrazio. Probabilmente anche sull'altare direbbe no. Sì, sicuramente. Ha detto sì, signora. No. Senta, lei secondo me, adesso la sento bene, ha una bella voce, così anche comunicativa. No, assolutamente, non mi interessa, veramente, mi scusi. Posso fare io un appello agli uomini che ascoltano? No, assolutamente. No. Dico sempre no. Ha un vocabolario molto ampio, signora. No. Ampissimo. Ci dica solo da qual è la sua città, tanto non si riconosce dal nome, dalla voce. No, è la mia città, è Castellammare di Stabia. Quindi è anche vicino al mare, è vicino a Napoli. Esatto. Si sposa, va magari in viaggio. No, non mi interessa. È la mia scelta, purtroppo. Io voglio sposare lei a Castellammare, fare il viaggio di nozze a Pozzuoli e poi vivere a Marano. Fissi, così, facciamo così, va bene, signora. La ringrazio. Grazie a lei, buona giornata. Grazie. No. Va bene, procediamo velocemente con un'ultima notizia prima delle rubriche finali. La notizia è questa: pare che a causa di internet, da 5 rapporti sessuali al mese le coppie siano passate a 3, perché si sta molto di più a guardare il tablet, a guardare il computer, e quindi c'è stata questa inchiesta, sondaggio. Prima, tra le coppie insieme da tanto tempo, si faceva una media di 5 rapporti al mese, e adesso invece si sta a letto insieme magari, ma si guarda il tablet. Quindi, se volete rivitalizzare il vostro rapporto non dovete avere una rete, non dovete avere una connessione. Più c'è connessione, meno ci si connette fra uomo e donna. Ma anche perché la connessione però permette di avere delle più relazioni extraconiugali, quindi per quello che cioè, diminuiti in casa. Certo, perché poi aumentano fuori. L'importante è avere sempre un che di buon umore e di risata e qualche idea nuova, e quindi la rubrica Le idee di Daniele Ceva per i palinsesti televisivi. Allora, la mia idea di questa settimana, che propongo a tutti i palinsesti televisivi, è un programma comico, ce ne sentiva la mancanza. Che bello, che bello. Ma questo è un po' diverso, caro Manera, perché si chiama Aspetta a ridere. Cosa succede? Inizia la puntata dove tutti i comici, una kermesse di comici, che diranno solo l'inizio della battuta, tipo: lo sa qual è il pesce più rumoroso? E poi esce. E poi finisce, esce il comico. Oppure esce. Può anche dire una serie, no? Insomma, ce n'è chi ne ha di più anche. Finisce la trasmissione, la settimana successiva vengono dette tutte le chiuse delle battute. Ah! E quindi la prossima settimana vi dirò. È la nuova frontiera della comicità. È la nuova frontiera, anche perché tutti, cioè lei come spettatore, poi è costretto a vedere la settimana successiva. La nuova frontiera della comicità è riuscire a non far ridere mai. Secondo me alcune trasmissioni ce la fanno. Come no, sì. Va bene, dopo questa idea di Daniele Ceva finiamo come sempre con un avanzo di poesia, cioè una poesia non nota che noi vogliamo rendere nota invece al pubblico. Chi abbiamo oggi, Manera? Chi ci cita oggi? Antonia Pozzi. Ma è ancora la stessa dell'altra settimana? Sì, Va bene per Antonia Pozzi. Titolo? Convegno. Convegno, che è una cosa poetica, convegno. Il convegno, dico. Nell'aria della stanza non te guardo, ma già il ricordo del tuo viso. Ah, ecco. Come mi nascerà nel vuoto. Era la stanza di un convegno. E i tuoi occhi come si fermarono ora, in lontani istanti, sul mio volto. A guardare dei grafici. Finiamo sempre con poesia a mare, caro Ceva, ha notato. Ma perché convegno? A cosa, perché? Va bene, anche per oggi siamo arrivati in qualche modo al termine e vi diamo appuntamento a sabato prossimo, non prima di avervi ricordato che dopo di noi c'è il sabato del villaggio con Marta Cagnola. Ma non solo con Marta Cagnola, ma anche con Sebastiano Barisoni, con Nicoletta Carbone, poi c'è Deborah Rosciani, Francesco Marnani, poi c'è Piero Guagli, Parenzo, Zeppi, Nandini, Collafelli, Mazzarelli, Macchi, Mix 24 con Minoli, Forte Brano, Forte Braccio, come sì, si chiama? Sì, Forte Braccio, Gargantua e Pantagruele. Tutte parole inutili, grazie per essere stati con noi, buon sabato pomeriggio, buon sabato sera, ciao, grazie. Buon fine settimana a tutti. No.